Variante attesa di una vita dura che curvava le loro schiene dalle 12 alle 14 ore al giorno, la sagra del paese, palesato sin dalla vigilia di archi verdi di pino, immerso nel festoso carillon delle campane. Di buon mattino la banda dai chiassosi costumi dava la sveglia in ogni contrada sino ai lager della Fornace. Un'animazione inconsueta dovunque. Il padrone tedesco, dalla grossa pancia e dalla grossa pipa, voleva intorno a sé i suoi instancabili friulani a cui faceva servire dalle kellerine capaci tazze di birra. Se scarsa la mercede, grande l'allegria che si manifestava a un certo punto nelle danze intrecciate all'aperto al ritmo di mazurche e di folche paesane. Le ragazze brillavano come fusi tra le braccia dei giovani friulani. Brüderschaft, fraternità, sul piano del lavoro e del sentimento, alimentato dalla medesima fede e dal medesimo attaccamento alle tradizioni abite. Da Innsbruck a Salzburg, da Klagenfurt alle Oben, da Graz a Vienna, non si incontravano che costruttori friulani, ai quali Bad Gastein, il Semmering, Abbazia, dovevano i loro grandi alberghi. La capitale della Stiria, i suoi quartieri più eleganti, l'Arlberg e Wohain, i loro tunnel, finiti e consegnati con anticipo di mesi sul contratto d'appalto. Le stesse fortezze costruite nel secolo XVI in Austria per arginare la prepotenza ottomana si possono ritenere opera di friulani. Lo dice Giuseppe Fonzan, storico non sospetto. Erano tanti che nei loro confronti converrebbe usare la parola invasione. E le cronache informano che sin dal secolo IX operai friulani costruivano chiese sulla Sava. E quanti artigiani in gara di bravura, veneti e friulani, non lavorarono nel secolo XVIII adornare la reggia di Schönbrunn? Ma il secolo XIX doveva segnare la loro affermazione più estesa. Nel corso della costruzione del Rathaus, municipio di Vienna, su 300 tagliapietre 250 erano friulani. Altrettanto valga per la Votivkirche, un vero cantiere scuola, che ricorda il voto della monarchia per lo scampato pericolo di Francesco Giuseppe, bersaglio di un attentato appena salito al trono. In 30 grandi birrerie e caffè del Prater, i friulani, in giacca nera e camicia inamidata, servivano spuntini di salame e formaggio, come ricorda Lodovico Zanini nel suo libro Friuli Migrante. Vienna era la più gaia capitale d'Europa. Es ist nur ein Wien in der Welt. Nel mondo c'è una sola Vienna. I primi valzer di Franz Lehár, eseguiti da famose bande reggimentali, mandavano in visibilio la folla domenicale. Europa in pace. Nell'agosto del 1899 un corpo bandistico italiano veniva applaudito nelle piumate divise dei bersaglieri. Gruppi di emigranti nei caffè del Prater suonavano indisturbati l'inno di Garibaldi e la marcia reale. I salamucci dei friulani, così erano chiamate le fettine da questi abilmente tagliate sotto gli occhi dei clienti, parevano suggellare tra la schiuma della bionda cervogia il motto caro ai viennesi: Leben und Leben lassen, vivere e lasciar vivere. All'improvviso le trombe di guerra. Finiva il mondo di ieri che Stefan Zweig ritrae nella sua ultima fatica di nostalgico inconsolabile. Finiva l'Austria di Mozart e di Lehár, di Hofmannsthal e di Strauss. Eppure anche nei tempi in cui i reticolati dell'odio tentavano di isolare i popoli avvinti nella fraternità del lavoro, i friulani furono operosi in Austria, nei cantieri edili, nelle segherie, nelle fornaci di laterizi, nei commerci cresciuti talvolta intorno ad un'umile mola di arrotino. Ne abbiamo incontrati recentemente in quel paese sempre bello, ma mutilato dalle guerre e depauperato dall'occupazione. Una quadruplice occupazione militare che grava sulle spalle del popolo stremato. Pieni tutti di buona volontà e, come sempre, stimati e ben voluti. I più recenti palazzi di Vienna, dai rivestimenti marmorei, dai terrazzi ineguagliabili, il ricostruito teatro dell'opera sono ancora dovuti in parte ai friulani. Un friulano regge con entusiasmo l'Istituto Italiano di Cultura della capitale della Nuova Repubblica. Lungo le serpeggianti strade di Grinzing, seducenti di frasche e di osterie, risuonano le villotte del Friuli, confuse alle musiche dell'Alte Wien, della vecchia Vienna. Sul ring si possono cogliere i conversari nell'idioma di Zorutti. Mondo di ieri, ma anche mondo di oggi. In altre parole, umani aspetti del Friuli migrante. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo. Decima trasmissione dedicata agli emigrati. Lavoro friulano in Austria. Testo di Chino Ermacora. Partecipa alla trasmissione l'Ottetto di Capriva diretto dal maestro Francesco Cappello. Musiche originali di Giovanni e Giuseppe Strauss. Musiche popolari carinziane, tirolesi e friulane.